pronto, ciao amore mio. Cosa fai di bello? Niente di che tu. Stavo pensando a te. Tanto tempo è andato ormai. Chissà come sarai tu e se piangi ancora, ancora per me. Resta lì, corro da te, dentro te sentirai. Dentro te sentirai e sarai libera di andare via e di volare nell'aria. Oh, oh, oh, oh. Pronto, ciao amore mio. Chissà cosa penserai, cosa penserai di me, chissà cosa proverai. È già tutto pronto ormai, mi preparo a correre da te, sto venendo lì da te. Dentro me sentirò. Ora resta lì che vengo da te. Dentro me sentirò e sarò libero di andare via e di volare.